se yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Il nostro privato ci sta veramente a cuore o ci siamo rassegnati di appartenere al mondo? Questa è la domanda di questa mattina, questa è una trasmissione che avevo già annunciato da tempo quando parlammo una settimana fa degli attentati alla nostra privatezza, ma allo stesso tempo notammo che c'era una sottile e a volte malcelata lussuria per mettersi in mostra. Noi viviamo a contatto con i nostri simili attraverso delle protesi elettroniche che ci danno immagini meravigliose, immediate, di noi stessi e degli altri. Ma queste protesi che ci aiutano tanto ad essere sempre reperibili, a reperire il mondo intero, ad essere accuratamente sicuri che ogni nostra proprietà sia sott'occhio di qualcosa che lo sorveglia, allo stesso tempo sono per noi una grande prigione. Una prigione per qualcuno piacevole. Ho davanti a me i 3.100 amici di Facebook che stanno già intervenendo questo programma e che mi danno grandi e dotte soluzioni per difendere la loro privatezza, per non essere intercettati, ma allo stesso tempo ognuno di loro ha messo le sue brave foto della famigliola al mare, racconta le sue festicciole serali, racconta quello che fa quando dovrebbe lavorare e via dicendo. Non si rende conto che sta affidando una parte importante di se stesso al mondo. Beh, 800 24 00 24, avrete una sorpresa questa mattina, ma sorpresa che ho già annunciato. Tecnologie sofisticate, sistemi miniaturizzati o dispositivi camuffati. Le telecamerine della videosorveglianza sono ovunque e chiunque le può utilizzare. Comuni, scuole, ospedali, società private ed istituti di vigilanza che trattano dati personali anche per conto terzi. Sono 40 oggi le ispezioni dell'unità speciale della Guardia di Finanza in tutta Italia. Le aree videosorvegliate vanno sempre segnalate e i tempi di conservazione delle immagini una volta registrate, che vanno dalle 24 ore fino in casi rari ad una settimana. Qui il cartello parla chiaro, tutta l'area è videosorvegliata, decine di telecamere seguono gli spostamenti di chi entra e di chi esce. Quelle da tutelare mi sembrano più che le immagini dei bambini. I bambini sono quelli che sono più deboli, più indifesi. Gli adulti, bene o male, se uno non ha niente da nascondere. Ben vengano che vengano messe, anzi, non solo qui, anche da altre zone di Roma. Questo era un servizio di Sky TG24 di ieri, da una notizia di ieri, di un'attenzione del garante per la protezione dei dati personali per le videosorveglianze. Strumenti utilissimi a prevenire, riconoscere, individuare atti contro la pubblica quiete, contro il diritto di tutti di sentirsi sorvegliati, ma allo stesso tempo oggetti implacabili che prendono ogni attimo della nostra vita e lasciano qualcosa di noi stessi come ombra digitale nelle loro memorie. Abbiamo in studio, come già avevo annunciato, il garante per la protezione dei dati personali, professor Francesco Pizzetti, che io saluto. Buongiorno, professore. Buongiorno, grazie. Lei è un po' la persona che dovrebbe tutelarci, ma più che tutelarci, ricordarci molte volte che quello che noi affidiamo a queste meravigliose macchine poi non sappiamo che fine fa. L'immagine del garante, lei mi immagino si trovi di fronte a un doppio problema, quello di dover ricordare a chi poi fa le leggi che le cose stanno cambiando velocemente in questi ultimi anni. Il diritto di dover affrontare delle mutazioni nei costumi degli uomini che non poteva prevedere, quindi va per secondo i suoi passi. Ma lei deve anche avvertire noi, utenti e affascinati da queste macchine, che forse dobbiamo fare attenzione. Certo, perché noi viviamo un'epoca particolarissima nella quale alla realtà materiale in cui gli uomini avevano vissuto per migliaia e migliaia di anni e migliaia di generazioni si è aggiunta una realtà virtuale del tutto nuova, del tutto ignota alla generazione precedente, rispetto alla quale non abbiamo né tradizione, né consapevolezza, né modalità pedagogiche. Io dico sempre che impariamo fin da bambini che se l'insalata è bagnata pesa di più che l'insalata asciutta, e quindi sappiamo che se dal verduriere l'insalata è bagnata paghiamo anche un po' dell'acqua che c'è dentro, e non sappiamo che una comunicazione messa su internet può rimanere per un numero indeterminato di anni, può essere captata da un ragnetto del motore di ricerca, può finire nella nostra biografia. Io credo che la maggior parte di noi non abbia mai provato a vedere quante pagine internet la riguardano. Ci sono casi in cui persone di una qualche notorietà hanno anche 500.000 pagine internet individuate sotto il loro nome su attraverso i motori di ricerca. Ma sa qual è il problema, professor Pizzetti? Che per molti è un esercizio di narcisismo andarsi a guardare su Google e vedere quante volte noi siamo citati dagli altri. Il problema è che queste macchine ci dà un grande piacere usarle. Scambiare le foto delle proprie vacanze in realtà è un esercizio che allarga, almeno come ipotesi, il giro delle amicizie, dell'intimità, delle persone che ci conoscono, ci vogliono bene. L'insidia sottile e piacevole è che queste macchine in fondo sembra che siano al nostro servizio anche per farci star meglio. No, io credo che ci sia proprio un problema di riuscire a fare un salto in avanti, a capire fino in fondo cosa sono queste nuove tecnologie. Praticamente ognuno usa il proprio telefonino come se fosse un oggetto esclusivo di sua proprietà e non riesce a rendersi conto che è un nodo di una rete, che quindi il telefonino lo rende intercettabile, localizzabile, individuabile nei suoi spostamenti. Lo diciamo, lo si ripete, la gente ovviamente lo memorizza, però poi quando lo prendiamo in mano è una cosa nostra. La stessa cosa avviene, secondo me, quando si comunica attraverso internet. Inevitabilmente si continua a pensare di comunicare da uno all'altro, che rimanga una cosa fra di noi. E anche se sappiamo che cosa effettivamente è, la nostra testa fa fatica a cogliere questa dimensione. Di ogni mail che mandiamo ne esistono almeno 4-6 copie, perché esiste la nostra, quella che teniamo in memoria, quella che arriva a quell'altro, quella che rimane nei server di chi ci dà la connettività. Quindi è impossibile pensare che quello che passa come comunicazione rimanga qualcosa di esclusivo. Microspia GSM Quadriband, la più piccola sul mercato. Eccezionale microspia GSM Quadriband miniaturizzata per ambienti e autoveicoli. Sorveglianza audio remota a distanza illimitata. Il sistema permette di ascoltare da qualsiasi distanza ambienti o veicoli. Microfono da muro. Microfono ultrasensibile professionale ad elevatissima sensibilità per rivelare anche i più piccoli rumori. Corredato di cuffia stetoscopio biauricolare, captatore telefonico e microfono a spillo. Professor Pizzetti, quello che una volta sembrava appannaggio degli agenti segreti, ricordo anche il numero di telefono 800 24 0024, oggi può essere acquistato da chiunque. In internet vendono di tutto. Noi la settimana passata abbiamo avuto un costruttore venditore di telefoni microspia, telefoni per intercettare. Abbiamo chiesto a questo signore: ma puoi vendere questa roba? Lui dice: sì, io posso venderla. Dipende che dall'uso che ne fanno chi li compra. Stanno proprio così le cose? Beh, c'è anche in questo settore un qualche ritardo della legislazione, però poi alla fine è vero che il problema di fondo è l'uso che si fa delle cose che si hanno. Una pistola può essere un'arma che non è lecito e legittimo usare se non si possiede il porto d'armi e se non si è autorizzati a usarla, può essere invece un'arma di difesa personale lecitamente autorizzata. Ma dico di più, pensi a un martello. Un martello serve per piantare un chiodo nel muro, può servire anche per rompere la testa di una persona. Quindi penso a una motosega, che sembra un'arma, un oggetto così utile a disboscare, cosa può fare su un essere umano? Un qualunque trapano elettrico Bedecker, no? Può servire per le cose più incredibili. Non diamo suggerimenti. Quindi anche dal punto di vista di queste nuove tecnologie il problema non è facilmente risolvibile in bianco o nero, è un problema molto di cultura, di informazione, di pedagogia, di consapevolezza dell'uso che se ne può fare, e ovviamente in questi casi certamente di essere consapevoli che l'uso di queste apparecchiature per spiare la gente è illecito, è una violazione che ha dei risvolti anche penalmente molto rilevanti. Questo forse è quello che vorrebbe sapere Paola. Paola, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io sono stata testimone di una storia che mi ha veramente scioccato, perché ad un'amica è successo che il marito intercettasse un SMS che gli era stato recapitato, e da quel momento le ha sequestrato il telefonino. Ma cosa c'era su questo SMS? Naturalmente era inequivocabilmente... cioè a Roma dicono sì, la presa col sorcio in bocca, diciamo. Esatto. Quindi questa cosa chiaramente ha insospettito. Questa amica di cui stiamo parlando si è lasciata sequestrare il telefonino come se fosse una bambina di fronte al padre. Scusa, con che diritto? Sì, appunto, questa è stata la cosa, penso che sia stata un atto di forza da parte del marito. Ma poi gliel'ha ridato, signora, suo marito, il telefono? No, no, infatti, non ancora. E tra l'altro la cosa scioccante è che lui, tra l'altro lavorando, è un magistrato, tramite un'agenzia è risalito a messaggi, sms e telefonate addirittura a 4 anni fa. Cioè, a 4 anni questa signora, questa sua amica, stava intrattenendo questa relazione adulterina e non pensa nemmeno a fare la tranquilla rivirginazione quotidiana del telefono quando rientra a casa. Ma probabilmente, ecco, lei lo faceva, solo che questo sms è arrivato in un momento in cui lei aveva... Bisogna mettersi d'accordo, se no c'è un amante, non si fa mandare messaggini alle 10 di sera. La ringrazio signora. Professor Pizzetti, è un problema banale, però... Può un coniuge, un familiare imporre una sorveglianza sugli strumenti di uso quotidiano come il telefonino? Beh, certamente no, ne può sequestrare il telefonino della moglie. Direi che da molti anni, per fortuna, la nostra legislazione non dà più al marito una potestà sulla moglie di questo tipo, quindi siamo in presenza di un fatto che non riguarda il diritto è stato violato, la signora ovviamente poteva rifiutare la consegna del telefonino, non c'è motivo per cui il marito possa sequestrarlo. Ma anche lo spiare il telefonino del partner, mi pare ci siano delle sentenze, in questo momento mi sfugge, non posso citarle con esattezza, sia un atto che non si può fare. Assolutamente sì, come non si può mica aprire la posta della propria moglie senza il consenso della moglie o viceversa, certamente. Non è che il rapporto matrimoniale consente l'invasione della riservatezza della persona, siamo dentro la libertà di comunicazione qui, no? La libertà di comunicazione è comprimibile solo con l'atto dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge. Evidentemente da sempre c'è il diritto e poi c'è l'ambiente familiare, i rapporti personali. Moltissime volte noi consentiamo cose che il diritto ci permetterebbe di vietare, no? E viceversa. Quindi qui siamo in presenza di una vicenda che ha tutte le caratteristiche del rapporto fra marito e moglie, in cui la moglie si è sentita in colpa e non ha avuto la capacità. Meglio dare il telefonino che farsi rompere una sedia in testa, penso. Ora scelto questo. Flavia, buongiorno. Buongiorno. Una domanda per lei e una domanda per il dottor Pizzetti. Lei è sempre stato un cantore di Facebook, è già un pentito. No, non sono un pentito. Ma molto al mattino alle 8:30. È lo strumento più valido che ho per fare questa trasmissione. La maggior parte dei casi, delle storie e delle segnalazioni mi arrivano da Facebook. È un adolescente un po' attempato, insomma. Sono semplicemente attempato, signora. D'accordo. Vabbè, questa è la domanda per me. E la domanda per il professor Pizzetti. Ecco, io non ho paura delle videosorveglianze, perché essendo donna mi sento molto più tutelata. Non l'ho capita. Perché una donna è più tutelata? E poi... Non ho capito la domanda. Scusi, signora, perché una donna è più tutelata? Ah, è una domanda per me? Sì. Anche perché... mi sento, posso uscire di notte se c'è una zona videosorvegliata, mi sento molto più a mio agio, molto più sicura. Ah, ecco, sì. Ecco, cioè non al 100%, magari sarà pure la coperta di Linus, ma mi dà una certa sicurezza. E poi un'altra domanda al dottor Pizzetti, a me fa molto più paura un Tavaroli che spia Telecom, che provvedimenti ha preso nei confronti di Tavaroli? Ma guardi, rispetto a Telecom noi abbiamo preso talmente tanti provvedimenti che il costo per Telecom di adeguarsi ai provvedimenti del garante si conta in decine di milioni di euro. Ovviamente non nei confronti di Tavaroli in senso proprio, perché questo è un fatto di penalmente rilevante, c'è un processo penale in corso, tra l'altro il dibattimento è persino aperto, ma noi abbiamo lavorato per 3 anni sulle banche dati di tutti i gestori telefonici, in particolare fra questi anche di Telecom, e credo che ammonti più di 30 milioni di euro i costi che Telecom ha dovuto sostenere per adeguarsi ai nostri provvedimenti. Ovviamente nessun provvedimento del garante potrà mai impedire che ci sia un illecito, come nessuna legge può impedire che uno uccida un altro uomo. I nostri provvedimenti servono solo ad alzare le misure di sicurezza, a rendere più difficile l'uso illegittimo dei dati e a responsabilizzare di più, rendere più facilmente rintracciabile chi si sia reso colpevole di uso illecito dei dati. Mi viene in mente, professor Pizzetti, che Oggi c'è una facilità estrema anche per controllare dei dati. Non è che servono dei cervelloni, degli interi edifici pieni di macchinarie. Chiunque può attrezzarsi e farsi una piccola zona di intercettazione privata e offrire un servizio. Beh, se fa una zona di intercettazione privata compie un'attività illecita. Sì, ma diciamo, la tecnologia permette un uso abbastanza semplice, nemmeno troppo oneroso. Sì, però dobbiamo anche tenere presente che gli illeciti sono sempre illeciti. Voglio dire, permettersi a rubare cose alla gente è semplicissimo. Basta cominciare ad andare in giro, quando vedo una borsa me la prendo, quando vedo una valigia lasciata per un momento me la porto via, e dopodiché è chiaro che non è che perché questo è un furto è impedito fisicamente il fatto di farlo. Ovviamente c'è tutta una pedagogia nota, per cui la gente per bene non lo fa, per cui uno sta attento alle proprie proprietà, per cui normalmente non lascia la valigia incustodita e così via. Quello che cambia nella tecnologia è che non è chiaro sempre la zona tra lecito e illecito. Sembra che perché la tecnologia lo consente, allora la tecnologia è bella, mi dà un'opportunità in più già che ci sono, la uso. E noi non siamo abbastanza capaci di proteggerci. A nessuno viene in mente appunto di lasciare una valigia incustodita. Siamo in migliaia di persone che lasciano la propria posta facilmente accessibile con una password a 4 soldi senza nessuna tutela reale. Gente che lascia il proprio computer acceso senza preoccuparsi di che cosa si può verificare. Con la password memorizzata, molti. Molti con la password memorizzata, normalmente col nome del marito, del figlio e così via. Ma al di là di questo sappiamo tutti che le password sono facilmente criccabili, ma molte volte si usano proprio password assolutamente banali. E ripeto, nella società reale è normalissimo autotutelarsi, nessuno esce di casa lasciando la porta aperta, nessuno esce di casa senza preoccuparsi che la porta sia blindata se è in una zona a rischio particolare di furti, nessuno se sta a piano terreno non mette le inferriate alla finestra, appena usa le tecnologie va tranquillo come se fosse una prateria assolutamente libera da ogni pericolo. Proprio per avere qualche risposta tecnica riguardo a questi pericoli, come lasciare la valigia incustodita o la password non protetta, altrettanto possono esistere necessità più raffinate per tutelarsi di fronte a attacchi più violenti. Abbiamo al telefono Federico, che mi sembra che si occupi proprio di software per la protezione della privacy. Ho detto giusto? Ha detto giusto. Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori. Io mi occupo da diversi anni appunto di studiare soluzioni tecnologiche per difendersi da illeciti tecnologici. Chi è il suo cliente tipo? Il mio cliente tipo è il commercialista, l'avvocato, l'imprenditore, ma anche la persona comune, perché la necessità di proteggersi da curiosi, chiunque ha nella propria sfera di conoscenze personali, persone che sono interessate a farsi i propri guarda, diciamo, le faccio un esempio. Un'amica di famiglia ha regalato un giocattolo ai miei figli, appena l'ho visto gliel'ho sequestrato. È divertente, bello, una specie di pistola con una parabola che si punta contro il muro, si mette una cuffia e sente tutto quello che accade al di là del muro. Per starmene anche tranquillo a casa mia ho pensato di toglierlo, ma questo era un giocattolo, però era perfetto, funzionava benissimo, sentivo tutto il condominio. Ecco, lei ha perfettamente ragione, come diceva giustamente prima, per proteggersi dai furti si mettono le inferriate, quindi barriere fisiche, adazioni fisiche. La tecnologia abbassa la barriera psicologica per la commissione dell'illecito. Come diceva, quindi, appunto il garante, non c'è la percezione. Se devo rubare la borsetta, io sono bloccato dal fatto che devo farlo fisicamente. Se devo controllare la sua posta elettronica o le telefonate che lei fa, posso farlo anche da centinaia di chilometri di distanza. Proprio per questo, in questi anni, con altri esperti del settore, come per esempio Philip Zimmerman, che è stato per diversi anni il massimo esperto di protezione della posta elettronica, ha sviluppato il famoso... Senta, le posso chiedere una cortesia? Devo mandare un attimo le informazioni della borsa. La tengo in linea, perché intanto chiedo all'800240024 se qualcuno ha domande di tipo tecnico. Poi lei ci dirà tecnicamente quali sono le soluzioni per le richieste più diffuse che ci vengono fatte riguardo a questo. Microspia GSM con sensore per telefono fisso. Il dispositivo permette di intercettare, oltre alle conversazioni ambientali, anche quelle in entrata e in uscita, attive su linea telefonica fissa. Quando il telefono fisso effettua o riceve una chiamata, questa viene automaticamente trasmessa sul vostro cellulare, permettendovi di ascoltare la conversazione telefonica in corso. L'ascolto è di qualità audio veramente impareggiabile. STR Tel. Dispositivo di monitoraggio ambientale molto sofisticato che permette di ascoltare discretamente nelle stanze dove è installato attraverso le normali linee telefoniche con qualsiasi tipo di telefono e da ogni parte del mondo. Il microfono di STR Tel catturerà qualsiasi rumore o dialogo prodotto in un ambiente di circa 12 metri quadri. 800 24 0024, siamo in trasmissione con il garante per la protezione dei dati personali, il professor Francesco Pizzetti. Avevamo al telefono, così lo saluto, Federico, rispetto a questi oggetti che vengono venduti in rete, chiunque può acquistare, lei ha delle contromisure possibili? Ma assolutamente sì, noi sviluppiamo diversi strumenti proprio per proteggersi tecnologicamente da attacchi tecnologici. Tutti principalmente software, sia per criptare le telefonate, quindi proteggersi da chi vuole ascoltare le telefonate, per criptare gli SMS, quindi per evitare situazioni spiacevoli come quella che diceva l'ascoltatrice precedentemente, e per proteggerci dalla posta elettronica. Per insomma, diventa un bricolage domestico che riempie gran parte del tempo libero, immagino, fra chi vuole intercettare e chi si difende. Questo sicuramente, ma principalmente l'offerta è rivolta a chi fa del business, quindi all'imprenditore che non vuol far sì che i propri collaboratori leggano la sua posta elettronica, perché questo mi piacerebbe fare una domanda al professor Pizzetti, relativamente al fatto che vietando dei comportamenti, quali per esempio il monitorare la posta elettronica, fondamentalmente consentiamo a chi di questi divieti se ne fa un baffo la possibilità comunque di continuare a farlo. Cioè, spieghi meglio la domanda. Non si può naturalmente controllare la posta elettronica di un dipendente, e questo lo sappiamo tutti. Perché, esatto. Ecco. L'amministratore non può controllare la posta elettronica del dipendente, ma non può neanche monitorare i flussi di posta elettronica, quindi senza neanche leggere il contenuto l'imprenditore o il responsabile ha un po' le mani legate dalla legge. Il dipendente a suo ruolo anche lui ha le mani legate e non può farlo, però quello che succede è che questi illeciti vengono comunque commessi, cioè, non vengono... Alla fine lei vuol dire che l'imprenditore si compra un software per poterla controllare ugualmente, ecco questo. No, che il dipendente, l'IT manager, questa figura un po' che ha preso il potere nell'area telematica delle aziende, può leggersi la posta elettronica del suo capo, ma il suo capo non può neanche lontanamente avvicinarsi. Penso che facciano illecito. Sentiamo il professor Pizzetti. Certo che se lui è smanettone e riesce a risalire alla posta elettronica del capo lo può fare, ma compie un illecito anche grave, penso, professor Pizzetti. Sì, certo che compie un illecito, soprattutto se lo fa senza un motivo connesso alla sua funzione. Qui si tocca un punto fondamentale, la figura dell'amministratore di sistema, che è un soggetto che ha accesso per motivi professionali, perciò è per garantire il funzionamento del sistema ed essere in grado di intervenire in caso di crack tecnologico, ha accesso a tutti i dati del sistema e allo stato attuale normalmente senza lasciar traccia del suo accesso. È uno dei tanti fenomeni di gap culturale. Io sono sicuro che i grandi manager pensano all'amministratore di sistema più o meno come pensano all'elettricista, e magari sono attentissimi a selezionare il cassiere piuttosto che il ragioniere, invece come il confessore, anche peggio, ecco, mentre dell'amministratore di sistema lo considerano un fatto tecnologico da delegare al provveditorato dell'azienda o ad altre figure organizzative. Invece è una figura assolutamente centrale. Noi abbiamo in animo da tempo di fare un provvedimento sugli amministratori di sistema. cercando anche di imporre della tracciabilità dell'attività dell'amministratore di sistema. Non è una cosa tecnologicamente semplice, perché l'amministratore di sistema molte volte può intervenire in urgenza e a pochi secondi per poter evitare il crack tecnologico. Allora, se si chiedono delle misure di autenticazione dell'accesso particolarmente onerose sotto il profilo temporale necessario, può entrare in contrasto con questa figura. È proprio su questo anche che siamo intervenuti rispetto ai gestori di dati di traffico telefonico, quello che diceva la signora poco fa. Fra i tanti provvedimenti presi, le tante misure imposte ai gestori di traffico telefonico, c'è anche quello di registrare gli stessi amministratori di sistema quando hanno accesso alle banche dati di traffico telefonico riservati alla magistratura. Vorremmo fare un provvedimento generale su questa figura anche a fini culturali, per spiegare ai manager e a chiunque che abbia un sistema a rete nella sua organizzazione imprenditoriale che l'amministratore di sistema è fondamentale. È uno dei tanti aspetti di questo lavoro enorme da fare. Dopodiché le misure di protezione di cui ci parlava stanno ripetendo nella società, nella realtà virtuale, quello che abbiamo sempre visto nella realtà reale. Ci sono i ladri, ci sono coloro che fanno le porte blindate, ci sono i proprietari di casa che si comprano la porta blindata, poi il ladro usa una nuova tecnologia, si compra una porta blindata più spessa. Ma tutto questo va inserito in un quadro di consapevolezza complessiva, che è quello che manca di più in questo momento. Questo è interessante, non me l'ero mai posto il problema, che in realtà l'amministratore di sistema di una rete ha una funzione quasi sacerdotale. Molte volte capita di vedere che automaticamente il proprio computer comincia a lavorare, vuol dire che da remoto stanno facendo delle operazioni. Ma soprattutto può accedere senza lasciar traccia, è l'unico soggetto che nella realtà attuale accede in qualunque momento senza lasciar traccia a tutto il sistema e può anche intervenire e anche modificare i dati del sistema stesso. Quindi quello che Karl Popper disse una ventina di anni fa riguardo a chi faceva televisione, dove aveva una specie di patente, l'amministratore di sistema dovrebbe appartenere a una sorta di categoria molto controllata. Sì, noi per consentire a uno di fare la guardia giurata gli facciamo fare una quantità di esami professionali, i carabinieri o la polizia fanno un'analisi della sua vita personale, privata, della vita familiare prima di lasciargli la licenza di guardia, anche solo di guardia giurata. Sugli amministratori di sistema è un enorme settore del tutto opaco, non regolato, non disciplinato. Loredana, buongiorno, velocemente. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo dire un paio di cose e chiedere anche una precisazione o comunque il parere del garante. Allora, intanto credo che sicuramente la legislazione rincorre sempre poi progressi tecnologici o variazioni culturali, insomma è chiaro che ci sia un ritardo in questo e insomma si spera che comunque anche le persone si adeguino a questo nuovo assetto, diciamo, comunicativo e prendano determinati provvedimenti anche di tipo appunto di consapevolezza. Dopodiché è chiaro che un margine di rischio c'è sempre in tutte queste tecnologie e lo accettiamo anche consapevolmente. È chiaro che nel livello di immissione di dati in questa rete, che tra l'altro è una rete piena di buchi, insomma 10-15 anni fa quando ci hanno in qualche modo portato, diciamo, l'utilizzo di queste tecnologie non era così evidente quanto anche internet fosse una specie di sabbia mobile nella quale può succedere di tutto, no? Quindi pensavamo fosse qualcosa di molto blindato, invece è molto precario anche nella perdita di dati, perché poi c'è anche il risvolto, insomma, della medaglia, per cui si possono avere anche dei danni da questo uso. La domanda, signora, la domanda è questa: non rischiamo però con tutti questi timori di avere l'effetto opposto, cioè di ridurre l'uso invece utile di questa tecnologia quando andiamo per esempio a condizionare le intercettazioni o quando facciamo il processo ai siti internet cercando di mettere il bavaglio alla rete, o quando appunto sulla scia di una paura incondizionata rischiamo di chiudere troppo gli spazi di questa cosa? Ecco, signora, domanda in sintesi: se questo aumenta il pregiudizio già esistente riguardo alla rete, riguardo alle nuove tecnologie, che molte volte è motivato semplicemente da un desiderio di frenare lo scambio, la comunicazione, l'interconnessione fra gli umani? No, direi che oggi come oggi il problema maggiore è la poca consapevolezza di che cos'è la rete dalla parte della maggior parte degli utenti. Noi in fondo siamo quasi tutti degli immigrati in internet, nel senso che internet è sviluppato quando noi eravamo già nati e già cresciuti. Solo i più giovani sono dei nativi in internet, gente che è nata nel mondo di internet. Loro capiscono molto di più come fare a usare internet, ma essendo giovani talvolta non si rappresentano tutte le conseguenze. Il giovane vive nella dimensione dell'eternità e nello stesso tempo nella dimensione atemporale. Lei è stato, professor Pizzetto, una volta a dire: state attenti voi che mettete su YouTube le vostre bravate in classe, quando vi valuteranno per un lavoro, anche quello sarà presente. Ma certo, ma non solo quello. Uno mette la sua storia giovanile mentre è giovane e non può, lui non riesce a pensare a quando sarà più anziano, perché è tipico dell'età giovanile. Bisogna però riuscire a fare un'opera pedagogica che noi più anziani non siamo in grado di fare, proprio perché siamo degli immigrati dentro. Non è questione di aver paura o avere pregiudizi, ma una realtà nuova, virtuale, va conosciuta. È un enorme far west nel quale bisogna trovare il modo di capire e imparare in che ambiente viviamo. Voglio fare un esempio che forse pochi sanno. La vicenda della figlia della candidata vicepresidente americana, la Palin, la governatrice Palin, è stata resa, è stata conosciuta dalla stampa perché il ragazzo, futuro padre, si era confessato su Facebook mandando a una serie di suoi amici nel social network le sue riflessioni, che lui non voleva diventare padre, non sentiva maturo, era in crisi per questo fatto. Il poveretto stava pensando semplicemente di dialogare con i suoi compagni, con la sua comunità, che vedeva fisicamente più che non come realtà virtuale. È rimasto naturalmente nel network, nel social network, e i giornalisti, andando a cercare tutte le notizie sulla famiglia di questa nuova candidata alla vicepresidenza, hanno scoperto questa vicenda. E allora questo ci deve dire come questa realtà è complessa, come il ragazzo stava operando. Certo, non sapeva che poi la madre della fidanzata sarebbe diventata candidata alla vicepresidenza, però non si immaginava mai che ci sarebbe stato un uso pubblico delle sue confidenze private. È che le selezioni professionali per la ricerca di figure professionali negli Stati Uniti ormai si fanno soltanto sui social network. Ci sentiamo tra un istante e vorrei riflettere col professor Pizzetti nell'ultima parte della trasmissione anche sui supporti fisici, le tessere che danno i supermercati, gli abbonamenti, quanto anche queste cose in fondo, passando comunque per banche dati elettronici, raccontano di noi al di là della nostra consapevolezza. 800 24 00 24, direi questa mattina sono più le telefonate del tempo a nostra disposizione per rispondere. Professor Pizzetti, le chiedo troppo se le dico che sarà possibile forse stabilire, non dico una costante ritualità, ma che lei venga altre volte, visto che è un argomento così importante. Certo, anzi sono io grato, perché è un'occasione per fare questo lavoro che per noi è fondamentale, di informare e dialogare con gli ascoltatori intorno a questi temi. Potremmo fare il venerdì della privacy, quando lei è disponibile. No, perché sono tantissime. Allora, volentieri. Andiamo subito a un problema che forse io ho già accennato prima. Qua stiamo parlando di informatica, di computer, già mi sta chiamando un ascoltatore su Facebook, che è il luogo più sorvegliato, più attento alla sorveglianza però, che mi dice che l'amministratore di sistema in realtà è una professione nuova. Medici, avvocati hanno l'ordine professionale, ma questo potrebbe essere da un ingegnere a uno smanettone con i capelli rasta, quindi ancora non sa bene chi sia, quindi è difficile definirlo. Ma soprattutto la maggior parte dei soggetti che operano nelle grandi imprese o nelle piccole imprese non sanno che cos'è l'amministratore, non sanno l'importanza. Quindi appunto lo considerano come l'idraulico, l'elettricista. Io immagino che anche un'impresa media sia attentissima ad alcune figure professionali, le selezioni con attenzione, dell'amministratore di sistema delega tranquillamente alla parte tecnologica. Dopodiché può succedere appunto le cose più strane. Un ascoltatore mi fa una domanda che appartiene a un futuro che già viviamo nel nostro presente ma che non conosciamo. Eugenio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Senta, volevo farle questa domanda per il garante. Cosa ne pensa il garante riguardo quelle persone che si fanno innestare dei piccoli microchip sotto pelle per controllare i propri figli che sono controllati da rilevamenti satellitari? Sono aziende italiane che montano questi. Cioè lei risulta che genitori mettano sui figli il microchip per... Sì, sono certe famiglie estremamente benestanti che per motivi di antirapimento innestano sia la moglie che i figli questi sensori. La moglie soprattutto penso che sia non tanto per motivi di rapimento ma di controllo. Per controllare, diciamo. Beh, è assolutamente vietato, noi abbiamo fatto più provvedimenti, noi e il gruppo dei garanti europei, per dire che non è consentito mettere un chip sotto pelle se non per ragioni particolarissime delle quali peraltro non abbiamo mai avuto contezza specifica. Dopodiché la follia di questi tempi è senza confini. In una discoteca di Barcellona i ragazzi si facevano mettere il chip sotto pelle per poter entrare in discoteca senza doversi fare riconoscere quando erano usciti ed entrati. Può capitare di tutto. Rispetto a questa vicenda io sommessamente dico, se i signori che vogliono utilizzare questi strumenti per motivi di sicurezza del figlio o di altre ragioni della moglie, se la sono immaginata tutta, perché una bella banda di rapinatori, venendo a conoscenza di qual è il chip e di qual è la frequenza con cui il chip trasmette, può essere molto facilitato a scoprire qual è il loro ragazzino dentro 50 ragazzini che escono dalla scuola privata. Se poi sbucciarlo come una banana per togliere il microchip, anche questo quindi va considerato. Ma non solo, ma poi può diventare anche un elemento a contrario utilizzato dalla delinquenza per identificare esattamente qual è la vittima o il target a cui si sta mirando. Rispetto alla moglie non ho parole, voglio dire, neanche la cintura di castità medievale arrivava a questi livelli di assurdità e di pervasività. Dopodiché si immagina che la signora sia consapevole, da questo punto di vista il problema. Allora le dirò una cosa difficile. Che mi ha spiegato un tassista: basta un foglietto di carta stagnola, se la signora si avvolge la parte con il microchip con carta stagnola potrei tranquillamente dedicarsi ai rapporti adulterini e non viene rilevata dal sistema satellitare. Sì, ma non è che può girare tutta la vita come uno cioccolatino, voglio dire, a un certo punto bisogna sempre pensarsi tutti gli aspetti complessi di queste nuove tecnologie, perché noi abbiamo tanta preoccupazione. Certo, per se uno vede la moglie che esce col Domopac sotto braccio deve sospettare. Beh, poi insomma, perché abbiamo tante preoccupazioni per le cartelle sanitarie elettroniche? Mica che non capiamo quanto sono importanti e utili, sono uno strumento eccezionale. Ho i dati sanitari messi su Google in internet, protetti ovviamente, come stanno facendo gli anziani americani. Sono un grandissimo. Qual è il limite di questo pizzettino? Lei si ricorda, domanda stupida, quando l'Agenzia delle Entrate mise le dichiarazioni dei redditi, vabbè, degli italiani, successe un bordello. Vabbè, ma c'è un limite sulla trasparenza della pubblica amministrazione? No, ma lì il problema non era la trasparenza, che i dati dei contribuenti siano conoscibili, è da 77 che sono conoscibili, non c'era nulla di nuovo. Il problema era la tecnologia utilizzata, cioè erano stati messi su internet senza nessuna protezione, addirittura con un sistema Word normalissimo, per cui erano pure modificabili. Non solo, ma conoscibile a tutto il mondo. Chi è che non se l'è scaricati per vedere il vicino di casa? E questo già è evidentemente un aspetto negativo, ma uno può dire, vabbè, io potevo andare al comune e il vicino di casa lo monitoravo lo stesso, era un po' più faticoso. Ma messi su internet in tutto il mondo, cosa poteva succedere? Che io, manager italiano, devo andare a una colazione d'affari a Shanghai, i miei competitori che sono intorno al tavolo sanno tutta la mia posizione contributiva e di lì possono trarre una grande quantità di informazioni sulla solidità della mia azienda, sulla mia professionalità e così via. Io non so niente di loro. Marco, velocemente, la sua domanda è interessante, la dica in maniera molto sintetica. Sì, io sono vittima ancora oggi di una persecuzione vecchio stile, nel senso che ho una persona che cerca di vendermi un abbonamento a una rivista che continua a chiamarmi, nonostante io abbia mandato fax appunto alla redazione della rivista per chiedere la rimozione dei miei dati dall'elenco delle società che fanno telemarketing, non ci sono riuscite. Questa persona evidentemente l'ha preso come un puntiglio e continua. Dunque, io azzarderei che questa persona sta commettendo un reato. Professor Pizzetti. Beh, questa persona sicuramente sta commettendo un illecito. È uno dei disastri italiani, questo del telemarketing utilizzato in questo modo oggettivamente selvaggio, e a cui si accompagna il fenomeno dei fax, della pubblicità mandata via fax. Noi abbiamo fatto vari provvedimenti, ispezioni, gli ultimi sono particolarmente incisivi e infatti hanno suscitato proteste perché hanno morso nella carne viva. Noi ci siamo anche preoccupati di farli con gradualità per evitare la disoccupazione dei giovani nei call center, però a un certo punto abbiamo cominciato a mettere degli stop più forti. Qui il problema più rilevante per noi come garante è che noi non abbiamo un potere sanzionatorio significativo, per cui eventualmente se io dovessi perseguire chi sta disturbando questo nostro ascoltatore dovrei dedicare parecchie giornate per individuare chi è, poterlo comprovare, poter fare l'istruttoria, sentire le sue controdeduzioni e alla fine, quando va bene, gli do una multa da 6.000 euro. Questo è uno dei motivi per cui io sono deciso a chiedere proprio in queste settimane al Parlamento sanzioni molto più significative nella disponibilità del garante. O noi abbiamo una possibilità sanzionatoria più significativa in termini monetari, o siamo obiettivamente, come oggi siamo, una tigre senza denti e disarmata. Siamo veramente sommersi domande. Anticipo, ce lo dico io avendo soltanto un minuto, così poi concludiamo e ci ridiamo un appuntamento perché non abbiamo esaurito l'argomento. Antonio dice: se una notizia sul web è dannosa, cosa si può fare per eliminarla? Si può avere diritto all'oblio delle notizie che mette il web della nostra vita privata? Anche se... Il diritto sicuramente sì, puoi farlo valere, è un bel problema. Io posso raccontare cosa è la nostra esperienza. Una signora si è rivolta a noi perché il motore di ricerca di Google pubblicava notizia di una sua condanna penale in primo grado, ma non la notizia dell'assoluzione in secondo grado. Ha chiesto il diritto all'oblio. Noi abbiamo fatto un'attività molto interessante con Google e loro, in modo collaborativo, anche se la loro sede è negli Stati Uniti, quindi noi non avevamo un potere coercitivo nei loro confronti, hanno accettato di prendere l'invito del garante come un invito costringente e hanno provveduto a cancellare da quella pagina web quella notizia. Sei mesi dopo la notizia è ricomparsa perché il ragnetto, girando nella rete, l'aveva trovata in un altro sito. Quindi riuscire a ottenere il diritto all'oblio una volta che una notizia è in internet è, allo stato attuale, terribilmente complicato. Professor Pizzetti, mi rendo conto che un'ora scarsa è nulla per trattare questo problema. Io prendo per buono il suo impegno, ci metteremo d'accordo, lasciateci domande, chiamateci 828 1111 alla segreteria telefonica, riavremo il professor Pizzetti e continueremo a parlare di questo problema che pare che sia così visceralmente legato all'esperienza di più persone di quelle che noi immaginavamo. A domani. Grazie. Melog va in replica questa sera alle 22:00.